rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Nella scorsa settimana abbiamo parlato tanto di Grecia, di immigrazione, di economia e non abbiamo parlato la settimana scorsa delle elezioni in Inghilterra perché erano proprio il fatto della settimana e naturalmente c'erano commenti e risultati in tutti i GR. Questa settimana iniziamo da un'altra elezione che è stata proprio domenica 10 maggio, la matematica mi tradisce, il 10 maggio era domenica scorsa, un po' oscurata dalle elezioni in Gran Bretagna, però erano elezioni importanti anche queste. Parlo delle elezioni in Polonia. E allora nei giorni successivi, per esempio la Gazzetta Wyborcza, uno dei quotidiani polacchi che riusciamo a leggere, lo dico sempre grazie a PressEurope.eu, questo sito che traduce anche da lingue che non sono facilmente accessibili, ha parlato di questo primo turno di presidenziali, che sono state definite una grande sorpresa, o meglio il risultato è stato definito una grande sorpresa, perché il candidato dell'opposizione di centrodestra, Diritto e Giustizia, è giunto in testa al primo turno. È una sorpresa perché appunto questo partito, che il cui acronimo è DUDA, ha ottenuto il 36,69% dei voti e il presidente uscente Bronislav Komorowski, che era sostenuto dalla piattaforma civica, che appunto è al governo, ha ottenuto solo il 29,14%. Si andrà naturalmente al ballottaggio, però, che sarà il 24 giugno, quindi un secondo turno, vedremo poi che cosa succederà, però è un risultato importante, se non altro perché era inatteso e perché segnala quanto sia, lo insegnano anche i sondaggi in Gran Bretagna ma anche i sondaggi in Italia, quanto sia mobile, così dicono i sondaggisti, l'elettorato europeo in questo momento. Il direttore della Gazzetta Wyborcza, Adam Michnik, però non è particolarmente ottimista, perché dice che la Gazzetta Wyborcza è un giornale di centrosinistra, che Andrei Duda, che ha posizioni su alcune cose molto estreme, più di destra vera che di centrodestra, potrebbe essere un pericolo per il paese. La Polonia è un paese che sicuramente giocherà un ruolo importante nei prossimi mesi, sia sulle questioni dell'immigrazione, sia per il semplice fatto che è uno dei grandi paesi europei, fino a pochi anni fa cresceva molto, poi la crisi economica ha colpito duro anche in Polonia, però è sicuramente un paese da tenere d'occhio. A proposito di questioni europee, strettamente europee, legate all'economia, vi segnalo una vignetta che ho trovato su questo quotidiano olandese Trove, e c'è una porta sulla quale c'è un inglese e la bandiera dell'Union Jack, c'è scritto Brexit, la porta è ancora chiusa, quindi non c'è questa fantomatica Brexit che, come diciamo sempre, a differenza della Grexit, che sarebbe semplicemente l'uscita dall'euro della Grecia, la Brexit sarebbe l'uscita dall'Unione Europea, perché la Gran Bretagna non è nell'euro, ha sempre mantenuto la sua sterlina. Ecco, a fianco di questa porta Brexit che è ancora chiusa, c'è invece una porta Grexit che è aperta e spuntano solo due mani aggrappate allo stipite. Questo è un po' il commento fatto con una vignetta, ma che a volte dice più di tante parole, di quello che è successo lunedì scorso a Bruxelles durante il meeting dei ministri delle finanze dei paesi della zona euro, che non hanno, come sappiamo, perché anche questo lo abbiamo sentito tanto, lo abbiamo letto tanto nei giornali, non hanno raggiunto un accordo sul famigerato, a questo punto possiamo dire, accordo per il debito della Grecia. Quello stesso giorno sono arrivate poi le notizie dall'Inghilterra, dove David Cameron, premier che ha vinto il suo secondo mandato, a sorpresa anche in questo caso, ma con una percentuale molto forte, ha detto che quanto prima farà questo referendum sulla permanenza del suo paese all'interno dell'Unione Europea, e da qui appunto abbiamo queste due porte, Brexit e Grexit. A proposito di questo referendum, c'è stata una delle prime reazioni riportata dal Times, è stata quella del governatore della Bank of England, governatore della banca centrale inglese, che a maggior ragione, appunto essendo la sterlina una moneta ancora esistente e non perché la Gran Bretagna non è entrata nell'euro, è sicuramente un'istituzione con ancora molta influenza sull'economia e sul paese e quindi sul premier, e Mark Carney ha chiesto che il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea venga fatto nel tempo più breve possibile. Questo referendum era stato previsto inizialmente durante la campagna elettorale vagamente nel 2017. In realtà al giorno dopo le elezioni Cameron ha detto: ma potremmo anche anticiparlo e farlo entro il 2016. Questa è anche un po' la posizione appunto del governatore della Bank of England. A proposito sempre di elezioni in Gran Bretagna, dalle quali si dice molti altri paesi, tra cui il nostro, ma anche la Spagna e tutti gli altri paesi dove si voterà a livello locale o nazionale nei prossimi mesi, appunto elezioni da cui si potrebbero imparare delle cose, per esempio che cosa succede ai capi di partito che perdono. E allora Financial Times si concentra sul successore di Ed Miliband alla guida del Labour. Il Labour è il partito di sinistra che ha perso le elezioni sicuramente, e secondo il Financial Times, ma anche altri quotidiani come il Daily Telegraph, il nuovo leader potrebbe essere Chuka Umunna, che è stato soprannominato il Barack Obama inglese, perché è di origini non di origine puramente britanniche, ma è sicuramente vicino alla dirigenza del partito, che non è stata completamente azzerata, però è anche al viso, al volto dell'uomo nuovo. Torniamo un attimo sulla questione della Grecia, perché comunque, come ho detto, come sappiamo un po' tutti, non è risolta. Allora El Mundo, quotidiano spagnolo, uno dei principali quotidiani spagnoli insieme a El País e La Vanguardia, sostiene anche qui una tesi su cui si sono avuti molti commenti, che il Fondo Monetario Internazionale, che all'inizio era uno dei tre membri della famosa Troica insieme alla Commissione Europea e alla BCE, non vuole partecipare a un terzo salvataggio della Grecia. Sapete che c'è stato, se ne è parlato, io mi ricordo per esempio in Focus Economia questa settimana, questo strano gioco delle tre carte, perché la Grecia ha utilizzato delle riserve greche custodite nel Fondo Monetario Internazionale per pagare parte del suo debito al Fondo Monetario Internazionale. Che appunto, quale definizione migliore se non gioco delle tre carte? Ecco, forse anche per questo il Fondo Monetario Internazionale non vorrebbe partecipare a un terzo salvataggio della Grecia. E secondo appunto quanto scrive il quotidiano El Mundo, e secondo quanto è successo all'Eurogruppo di cui parlavamo prima, che si è tenuto l'11 maggio, Eurogruppo sta per in generale una riunione di ministri di una certa materia, in questo caso erano i ministri delle finanze. Ecco, il Fondo Monetario Internazionale avrebbe manifestato queste riserve perché il terzo prestito sarebbe di 50 miliardi di euro, e lo ricordiamo, appunto lo ricorda anche El Mundo, che Atene ha appena rimborsato il prestito da 750 milioni, ma come ha fatto? Attingendo per 650 di questi 750 alle riserve SDR, che sono, hanno dei diritti speciali di prelievo. Cambiamo un po' continente e vediamo come ci vedono dall'altra parte dell'oceano su una questione che è molto delicata, ed è quello della xylella, questo batterio molto cattivo, potremmo dire, anche se definire un organismo che fa sostanzialmente quello che gli dice il suo istinto cattivo è sempre un po' così fastidioso. Però è vero che questo batterio, la xylella, sta facendo dei danni enormi agli ulivi del Salento, dei danni alle piante che sono molto colpite e all'economia che ruota intorno alla raccolta e alla produzione di ulivo, specialmente in Puglia, che quest'anno avrà un raccolto scarsissimo e quindi una produzione scarsissima di ulivo. Il New York Times ha mandato un inviato in un piccolo paese in provincia di Lecce che ha raccontato questa vicenda, tra l'altro cercando di allargare l'orizzonte rispetto alla Puglia, perché la xylella, come tutti i batteri, non lo vediamo e quindi a maggior ragione abbiamo molta difficoltà a fermarlo, e quindi si è già spostato in altri paesi, su altre piante. È difficile trovare una cura perché usare dei pesticidi significa compromettere ovviamente la qualità dell'olio, anzi può anche voler dire dover comunque saltare il raccolto, addirittura uccidere l'albero nel tentativo di curarlo, tutte cose che abbiamo già sentito ma che il New York Times riracconta ai suoi lettori. E c'è tra l'altro un paragone a quello che era successo in California qualche anno fa, dove una malattia simile aveva colpito i vigneti, quindi la vera fonte di sostentamento di una grande parte della California, a cominciare dalla Napa Valley. E tantissimi altri commenti anche questa settimana sull'immigrazione, naturalmente, perché come sappiamo ci sono state alcune decisioni dell'Unione Europea, ma poi in questi consigli straordinari che si stanno tenendo, l'impressione è che veramente qualcosa si stia muovendo. Le decisioni annunciate da Lady Pesk e Mogherini mercoledì scorso, il 13 maggio, fanno ben sperare. C'è un iter lunghissimo perché queste decisioni diventino poi azioni concrete, però sicuramente sono segnali importanti. avanti. E allora, sempre grazie a Press Europe, vi segnalo una lunga analisi che anche, come sempre, è molto utile, ripercorre anche tutto quello che è successo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, un'analisi di Giampaolo Accardo, che è un giornalista italo-olandese, scrive sia per Internazionale che per Vox Europe o per Courrier International, che è un po' l'internazionale francese, e appunto ci racconta e ci invita a comprendere che l'immigrazione, l'emigrazione, la migrazione, chiamiamola come vogliamo, è un fenomeno costante, non è un'emergenza. Trattarlo come un'emergenza o pensare che si tratti appunto solo di fermare delle persone che affrontano qualsiasi rischio pur di lasciare i paesi in cui sono nati e dove spesso ci sono guerre o malattie, ecco, pensare semplicemente di respingerli è assurdo. Ce lo siamo detto tante volte, ce lo dice probabilmente la testa, poi la pancia a volte fa dire tante altre cose molto meno giuste. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi per questa settimana. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.